Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di lavoro, parliamo di storia del lavoro e lo facciamo con Stefano Musso, professore di storia contemporanea all'Università degli Studi di Torino. Buonasera professor Musso. Buonasera. Il professor Musso ha curato gli ultimi, ma possiamo dire anche i primi, adesso spieghiamo perché, due tomi di una grande opera, un'opera in sei volumi sulla storia del lavoro in Italia. Gli ultimi due perché si riferiscono al Novecento, dal 1896 al 1945 il primo, dal 45 al 2000 il secondo, ma questa storia del lavoro in Italia edita da Castelvecchi prevede appunto come piano dell'opera sei volumi, i primi quattro dedicati all'età romana, al medioevo, all'età moderna e all'Ottocento. Però in questi due volumi si parla appunto del Novecento curati da Stefano Musso, che ha fatto l'introduzione e ha scritto alcuni capitoli. Ecco, come possiamo sintetizzare la storia del lavoro del Novecento? Quali sono i punti principali su cui si svolge appunto questa vicenda del lavoro di una società che all'inizio del Novecento è all'inizio appunto della rivoluzione industriale e che negli anni contemporanei si trova di fronte a una realtà del lavoro soprattutto terziario. Professor Musso, quali sono stati i punti principali di questo cammino? I punti principali sono stati senz'altro l'uscita da una condizione nella quale l'Italia stava alla periferia dello sviluppo economico europeo e internazionale, e poco per volta è arrivata al centro, no? Si è collocata fra i principali paesi industrializzati del mondo. Quindi è stato un cammino da una società prevalentemente agricola e artigianale ad una società maturamente industriale, e il Novecento è proprio il secolo dell'industria, anche se nell'ultimo quarto, diciamo, l'ultimo quinto del Novecento sono iniziate trasformazioni profonde, per cui si tende a parlare di società post-industriale in riferimento appunto al fatto che l'occupazione manifatturiera diminuisce come peso sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista del contributo al valore aggiunto, e mentre invece il terziario, i servizi, assumono il primato. Quindi diciamo che questi due volumi tendono a raccontare il cammino dell'Italia da paese agricolo artigianale a paese industriale, e poi a illustrare anche le ultime trasformazioni che naturalmente non costituiscono il fuoco di questa ricostruzione, perché si tratta di processi ancora largamente in corso che sono poco afferrabili con gli strumenti dello storico. Ecco, quando si parla di storia del lavoro, professor Musso, il pensiero va immediatamente alla storia del sindacato. Però ecco, il sindacato è una parte di questa storia del lavoro. La storia del lavoro è più complessa della semplice storia della realtà sindacale, pur importante indubbiamente nella realtà italiana. No, senz'altro, qui noi parliamo di tanti problemi. Il lavoro intanto non è solo il lavoro, come dire, manuale, ma è il lavoro impiegatizio, è il lavoro dei tecnici, è il lavoro degli imprenditori. Quindi qui abbiamo cercato di tenere insieme la storia sociale dei mondi del lavoro, che è bene declinare al plurale perché sono mondi molto diversificati, con la storia delle organizzazioni sia di parte sindacale operaia sia di parte datoriale, che hanno, come dire, hanno cercato di tutelare gli interessi delle parti sociali, e poi si parla di movimenti migratori, si parla di legislazione, quindi di politiche del lavoro, e dal punto di vista anche dei contributi numerosi che costruiscono quindi un quadro a tutto campo del lavoro inteso come attività di produzione di ciò che è utile per la società. Quindi il campo è molto vasto, non ci sono soltanto i storici tra i contributori, ci sono, diciamo, gli storici predominano perché si tratta di un lavoro di storia, però abbiamo giuslavoristi, abbiamo economisti, abbiamo sociologi, abbiamo medici del lavoro che si sono occupati anche degli aspetti della salute sui luoghi di lavoro. Quindi è un'opera fortemente interdisciplinare che tocca moltissimi aspetti anche se dei mondi del lavoro, anche se naturalmente non è che ci sia una pretesa enciclopedica che sarebbe impossibile da raggiungere, però c'è la storia dell'economia, c'è la storia dell'impresa, c'è la storia delle associazioni, dei lavoratori e degli imprenditori. Ecco, un'impresa che è cambiata molto come prospettiva, soprattutto direi negli ultimi 60 anni della ricostruzione in poi, un'impresa che ha avuto il suo apice appunto come capacità anche di creare lavoro negli anni 60, dove il 44% della popolazione attiva era nel settore secondario, lei lo ricorda nella sua introduzione, un'impresa che poi si è trasformata e è diventata sempre di più un'impresa impiegatizia, un'impresa appunto in cui negli ultimi anni il terziario ha avuto il sopravvento. Questo ha influito in questa dimensione del lavoro in tutti i suoi aspetti, anche nel ruolo in fondo dell'Italia, nella divisione del lavoro internazionale, professor Musso. Sì, diciamo che queste trasformazioni sono ancora in corso e non è che si possa prevedere esattamente la strada che verrà imboccata, però quello che si può diciamo notare intanto è che l'Italia mantiene nel panorama internazionale assieme alla Germania ancora una quota di attività manifatturiera molto elevata rispetto per dire all'Inghilterra, agli Stati Uniti, ma anche rispetto alla Francia e in parte anche rispetto al Giappone. Quindi c'è ancora una base manifatturiera significativa. Ciò che si è trasformato è stata soprattutto la dimensione dell'impresa, che si è adattata in parte grazie alle tecnologie informatiche, in parte nel tentativo di ridurre i costi a fronte di mercati globali che sono diventati sempre meno prevedibili, sempre più instabili, ha cercato di flessibilizzare la propria capacità di risposta ai mercati, dimagrendo, no? Diventando lean, diventando sottile e creando una struttura produttiva a rete che ha moltiplicato le piccole imprese e ha invece ridotto molto il peso della grande impresa. E poi ricorrendo sempre più a servizi anche di tipo pubblicitario, di marketing, informatici, eccetera, si sono sviluppate anche microimprese che offrono servizi alle imprese di maggiori dimensioni. Dunque si è molto, come dire, sono venute meno, diciamo, quelle grandi concentrazioni di lavoratori che avevano caratterizzato l'età fordista, che in Italia significa l'età del miracolo economico, gli anni 50-60 e poi la coda, diciamo, degli anni 70, quando quel modello ha iniziato a entrare in crisi. Ecco, un modello in cui peraltro si è avuta anche una crescita in quel periodo, negli anni 60-70, del lavoro femminile, della presenza femminile all'interno del mondo del lavoro. Una realtà che tuttavia per l'Italia ha sempre voluto dire avere un gap rispetto agli altri paesi. La percentuale di donne attive è inferiore a quella degli altri paesi. Questo è un mondo del lavoro che un po' esclude la realtà femminile, professor Musso? Diciamo non è che la escludo, però indubbiamente il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro in Italia, come lei ricordava giustamente, è più basso rispetto ai paesi più avanzati e questo è un handicap sicuramente anche per la capacità, per la dinamicità del sistema produttivo, del sistema economico del paese. Abbiamo ancora un retaggio, come dire, che è un po' tipico dell'Europa mediterranea, dell'Europa del Sud, in cui restano, come dire, delle componenti tradizionali di cultura che non favoriscono un pieno ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma questo ha a che fare anche con una relativa povertà dei servizi offerti dagli enti pubblici che dovrebbero, come dire, no, creare le condizioni perché il contemperare le necessità del lavoro di cura che ancora sono caricate prevalentemente sulle donne potessero essere, come dire, no, più facilmente conciliabili con le esigenze lavorative fuori dalle mura domestiche. Per concludere questa nostra presentazione di questi libri sulla storia del lavoro, si può ricordare quanto lei afferma alla fine dell'introduzione appunto dell'ultimo volume, quello dedicato in fondo anche ai nostri giorni. Lei dice che tutte le componenti del mondo del lavoro hanno interesse a scongiurare il declino, la deindustrializzazione, solo la manifestazione manifattura consente oggi all'economia italiana di competere nel mondo, essendo i servizi poco attrezzati per i mercati internazionali. Quindi l'industria italiana, anche nella prospettiva del lavoro, ha comunque dei punti di forza, dei punti su cui puntare per appunto evitare il declino essenzialmente, ma anche ritrovare una strada di crescita, professor Musso. Senz'altro, sì, tra l'altro proprio in questi anni di crisi che forse non è la più acuta dell'età capitalistica, ma che sta diventando la più lunga, proprio in questi anni di crisi le imprese che continuano, come dire, no, ad avere una situazione positiva, florida in alcuni casi, sono le imprese italiane, diciamo del mondo del made in Italy in senso generale, che esportano. Le nostre imprese esportatrici sanno collocare prodotti di qualità, di nicchia, su mercati internazionali molto vasti, e quella è la strada che dobbiamo, credo, proseguire, perché questo è un vantaggio notevole che presumibilmente ci potrà permettere anche di trovare una strada per uscire dalla crisi. Ecco, infatti proprio quest'ultimo volume dedicato agli anni dal 1945 al 2000 si intitola La ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione, quasi per segnare i tre capitoli principali degli ultimi 60 anni, prima quelli della ricostruzione e poi quelli appunto che legati alla ricostruzione hanno portato al miracolo economico e alla crescita dell'industria, e adesso la sfida della globalizzazione, questa sfida che comporta anche un confronto, e un confronto aperto con gli altri paesi, anche nelle forme di organizzazione del lavoro, professor Musso. Sì, senz'altro, e anche nelle forme di, come dire, di gestione delle relazioni di lavoro. Bisogna attrezzarsi a nuovi modelli che consentano all'impresa italiana di internazionalizzarsi, di essere forte, presente sui mercati internazionali. Bisogna poter riuscire a, come dire, no, puntare sulle specificità, sulle capacità, le competenze che il paese ha, e anche sulla sua ricchezza, come dire, no, che è legata a una storia secolare di capacità, anche di tipo artigianale, ma appunto di competenze che altri paesi non hanno in tutti i campi, dalla produzione alimentare fino a quella artistica. Ecco, leggere la storia, indubbiamente fare un passo avanti anche per capire quali possono essere gli sviluppi futuri per riuscire ad affrontare appunto questi sviluppi. Grazie professor Musso. Abbiamo parlato degli ultimi due volumi della storia del lavoro in Italia, una storia del lavoro che si articola su 6 volumi. Gli ultimi due volumi sono dedicati al Novecento, dal 1896 al 1945, dal 1945 al 2000, sono editi da Castelvecchi, hanno circa 700 pagine ciascuno per 47 euro. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.